Focus Economia di Sebastiano Barisoni. E 5 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora, come avete sentito anche dal nostro GR, potrebbe essere la data di oggi quella del punto di svolta. Attenzione ai facili entusiasmi, però i dati che sono arrivati da Germania e Francia sono dati a sorpresa e soprattutto importanti, perché nella variazione trimestre su trimestre c'è finalmente il segno più in Francia e anche in Germania. Inatteso soprattutto il dato tedesco, perché la Germania ha un grosso problema di esportazioni, forse più atteso il dato francese, perché la Francia, dei paesi principali dell'Europa, è quello che sta tenendo meglio, per quanto dovrebbe chiudere anch'essa in leggera recessione, sta tenendo meglio grazie ai consumi interni che sono buoni, che non sono in frenata o in picchiata. Però vedere il segno più rispetto al trimestre precedente fa dire poi alla stessa Banca Centrale Europea, come avete sentito, dovremmo essere arrivati alla svolta. Svolta non vuol dire ripresa consistente, non vuol dire tornare purtroppo ai livelli di inizio 2008 e neanche di fine 2007. Il ragionamento adesso comunque lo faremo con i nostri ospiti, è sempre il solito: se tu da 100 fai un meno 40% vai a 60, e se anche poi fai un più 10% vai a 66, per cui attenzione che la risalita è molto più lunga della discesa, purtroppo, in economia, come delle volte anche nella vita. Ma insomma, il ministro francese Christine Lagarde dice siamo fuori dal rosso. Anche il Portogallo segnala e registra oggi un imprevisto ritorno alla crescita economica. Questo pone l'Italia in una poco invidiabile classifica del paese che in questo momento sta registrando, per quello che è il calo acquisito, il calo più forte nel PIL dell'area euro, perché siamo stabilmente sopra il 5% per quello che riguarda le previsioni per quest'anno. Ormai si va verso un 5,5% almeno di calo del nostro PIL. La Germania potrebbe invece chiudere un po' meglio. Di questo parleremo in apertura, sia sul fronte europeo che sul fronte italiano. Poi ci sposteremo ai mercati, che confermano quello che alcuni chiamano il mini rally estivo, più 1,4% Milano, più 0,6% Parigi, più 1% Francoforte, più 1% anche Londra, l'America più 0,24%, Milano di nuovo è tra le migliori, e soprattutto per via di CIR, più 5,37%, e poi Fiat è molto forte oggi, più 5,1% a 8,50 euro. Ci sono novità anche sul fronte tedesco della Opel, quindi Magna, Opel Magna, ma adesso le racconteremo. Continuo con i titoli: Italcementi più 3,4%, Pirelli più 3% come Prismia, nel Monte dei Paschi, Fondiaria più 2,80% come Unicredit, il 2,5% lo guadagna il Banco Popolare e anche Mediobanca, ma anche Luxottica, Tenaris, Ubibanca, Mondadori e Intesa guadagnano il 2%. Chi perde? Poca roba: Telecom Italia meno 0,5%, Buzzi Unice meno 0,2% come Enel. Forte l'euro, vicino a quota 1,43, sul dollaro 1,42,86. Le notizie in breve, come sempre. Ci occuperemo anche del ritorno, ahimè, a Wall Street della speculazione più, non so come chiamarla, più folle sui titoli, quindi con sistemi chiaramente e programmi che lavorano sul millesimo di secondo. Di nuovo oggi polemiche per un ritorno delle banche d'affari americane a pratiche che alcuni ritengono estremamente rischiose, perché poi non permettono di vedere quello che viene transato o di capire quelle che sono le transazioni in corso, compra vendita di titoli, ripeto, fatta con tempi che vanno verso il centesimo, il millesimo di secondo. E su questo ci si interroga, anche perché molti sono rimasti perplessi dai dati di bilancio positivi, e questo fa piacere, ma forse un po' troppo positivi, delle grandi banche d'affari americane aiutatissime dai soldi dei contribuenti americani. 349-238-6666 per i vostri sms, le altre notizie in breve. Un po' di pazienza con gli sms che dicono siete troppo gay, siete troppo ottimisti. Le cose sono come ve le abbiamo dette. Un conto è parlare di una ripresa o di un recupero, l'altra cosa è vedere quando si tornerà ai livelli pre-crisi. Le ultime indicazioni che abbiamo ricevuto dal Fondo Monetario, dall'Ocse, stimano, ma anche devo dire da Union Camere, per quello che riguarda l'Italia, stimano nel 2012 un ritorno ai livelli produttivi simile a quello del 2007-2008. Andiamo con ordine, però il petrolio è in rialzo a $71.5 al barile a New York. In America le vendite al dettaglio segnano il passo rispetto alle attese, invece che fare un più 0,8% come previsto fanno un meno 0,1%, e peggiore delle stime anche dato sulla disoccupazione. Sui sussidi alla disoccupazione in America aumentati di 4.000 unità, ci si attendeva invece che ci fosse un calo in questi sussidi di 9.000 unità. E che in America la crisi possa essere quasi alle spalle sul fronte bancario, finanziario di Wall Street, ma è ancora in pieno svolgimento nella parte bassa, diciamo, della catena, ossia i crediti concessi ai soggetti fisici, alle famiglie, i mutui concessi alle famiglie, lo dice il dato di oggi sull'aumento dei pignoramenti. Continua a segnare infatti record storici in America il pignoramento di casa. Nel mese di luglio sono stati 360.000 i proprietari di casa dichiarati insolventi o che si sono comunque visti pignorare le proprie case dalle banche. Praticamente a questo punto una famiglia americana ogni 350 ha ricevuto un'ingiunzione di sfratto. Questo sta trascinando anche a ribasso il prezzo degli immobili negli Stati Uniti. Il prezzo medio di una casa ancora nel secondo trimestre dell'anno è sceso del 15% a $174.000, pensate che è il livello più basso dal 1979. Bene invece Walmart, che è la maggiore catena al mondo di vendita al dettaglio, diciamo di grande distribuzione come la chiamiamo noi, ebbene ha chiuso il secondo trimestre dell'anno con un utile netto pari a $3.4 miliardi. Le vendite sono scese dell'1,4%, ma tengono i conti per Walmart. Spostiamoci in Europa, perché la vicenda Opel sembra a questo punto giungere a una conclusione, anche se General Motors, che è proprietaria della Opel, non ha ancora preso una decisione. Cosa è successo oggi? Magna, che è l'offerente, quello che è rimasto in pista, austro, canadese e russo, ha raggiunto un accordo su tutti i punti per la vendita di Opel, e anche il tema della proprietà intellettuale sarebbe stato risolto, ha precisato oggi il commissario delegato di Magna Siegfried Wolf. Nessuna invece decisione dalla General Motors. E comunque commenta in maniera favorevole la notizia dell'accordo raggiunto da Magna per l'acquisto dell'Opel il potente sindacato dei metalmeccanici tedeschi Ligue Metall. La vicenda Agnelli ve l'hanno già raccontata i nostri GR, ma soprattutto anche l'intervista, avete sentito un passaggio del direttore generale dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera, che ha detto sotto la lente ci sono 170.000 casi, tra cui anche quelli di conti aperti presso la filiale italiana di UBS. Ancora sulle pensioni di invalidità, anche qui, visto che si è molto parlato in questi giorni di gabbie salariali, di differenze di reddito, ricordo stipendi più alti al nord del 15%, ma costo della vita più alto al nord anche del 16%. Beh, fa un po' specie, con il massimo rispetto per chi l'invalidità ce l'ha e ce l'ha vera, vedere che il numero di invalidi è del 50% superiore al sud rispetto al nord, questo parametrato alla popolazione. Praticamente al nord c'è una pensione di invalidità, ci sono 2,9 pensioni di invalidità ogni 100 abitanti, al sud il rapporto è quasi doppio, a 4,4. E anche qui la regione in Italia che ha meno persone che percepiscono la pensione di invalidità rispetto alla popolazione è la Lombardia, 2,79 ogni 100 abitanti. Primo tema quindi, l'economia europea ha una svolta, vogliamo anche un po' esorcizzare e scherzarci sopra. sono campane a festa che insomma seguono le numerose campane a morto di questi ultimi 12 mesi, forse anche qualcosa di più. Campane a festa per scherzare anche, visto che non stiamo parlando di una ripresa robusta, ma stiamo parlando del primo segnale che arriva dall'economia europea e ha il segno più. Mi riferisco al PIL tedesco nel secondo trimestre dell'anno, quindi in un periodo in cui ancora era in pieno svolgimento la crisi, da marzo, cioè aprile, maggio e giugno. Nel secondo trimestre, dicevo, la Germania ha fatto un più 0,3% rispetto al primo trimestre. Certo, guardando rispetto all'anno prima, il dato è pesantemente negativo, meno 5,9%, però l'anno su anno gli analisti si attendevano un meno 6,6%. La Francia, anch'essa più 0,3%, con un calo rispetto all'anno precedente del 2,6%, ma quello che sappiamo essere importante adesso è vedere come si muovono i trimestri l'uno sull'altro, non tanto guardare a un anno prima, perché tanto è dato per scontato che rispetto all'anno prima il segno è meno ed è anche pesantemente meno, però per capire la velocità di uscita o di ripresa da questa crisi è importante vedere il dato cosiddetto congiunturale, il mese su mese o il trimestre rispetto al trimestre precedente. Saluto e ringrazio allora per averci raggiunto in collegamento, da un lato il presidente dell'Istituto SEPS, che è il Centro Europeo per gli Studi di Politiche Economiche, dottor Daniel Gross. Buonasera presidente. Buonasera da Bruxelles. E buonasera anche al neo presidente dell'Istat, una voce però non nuova per Focus Economia, mi riferisco a Enrico Giovannini, che è stato fino a poco fa responsabile del Dipartimento Statistico dell'OCSE. Buonasera presidente anche a lei. Buonasera. E congratulazioni, visto che adesso ricopre la carica di presidente dell'Istat. Professor Gross, dato tedesco, dato francese, anche il Portogallo vede un ritorno alla crescita dello 0,3%. Stiamo parlando di una ripresa o di una stabilizzazione, e non è un gioco di parole? No, è chiaro che se non si tratta di una ripresa vera, si tratta di una stabilizzazione dopo una caduta quasi verticale. Per uscire da un meno 6 ci vuole una ripresa di più 3, più 4, più 5, e siamo ancora molto lontani da questo. Quindi lei vede più una stabilizzazione del ciclo economico? Ecco, per il momento sappiamo che la caduta si è fermata. Si è visto anche che nei mercati finanziari le cose tornano lentamente alla normalità, ma aspettiamo ancora i segnali di una ripresa veramente degna di questo nome, e per il momento né i dati su PIL né i dati sulla produzione industriale ci danno questi segnali. La Francia poteva essere più attesa perché dei paesi europei è quello che ha il PIL in calo minore, stando alle stime sia di Eurostat che dell'OCSE. Soprattutto la Francia dovrebbe avere un calo del 3% quest'anno, quando la Germania ce l'avrà del 6, noi del 5,5, la Gran Bretagna del 4 e passa. È più sorprendente, a mio avviso, professor Gross, la Germania, che è così legata all'export, evidentemente qualcosa si sta muovendo. No, io penso che il dato tedesco sia piuttosto una piccola correzione di un dato eccessivamente negativo del trimestre precedente. Per cui per la Germania anche si tratta di una stabilizzazione, e si sa che i dati sul commercio sono molto volatili, per cui io non metterei troppa fiducia in questo singolo dato per l'economia tedesca. Ecco, insomma, lei sta utilizzando quello che in America si chiama il rimbalzo del gatto morto, no? Cioè, se tu lanci un gatto da grattacielo, è chiaro che alla fine, quando atterra, un rimbalzo ce l'ha anche lui. E vabbè, però insomma, siamo ad agosto, ci saranno altri motivi di soddisfazione, immagino, per i nostri ascoltatori. Professor Gross, un'ultima domanda. A chi possiamo dare il merito, comunque la causa di questo dato migliore delle attese? Alle politiche economiche dei governi tedesco, francese, portoghese, oppure alle iniziative prese a livello europeo dalla Banca Centrale Europea, i tassi ai minimi storici, praticamente vicini allo zero, e anche l'aver messo in sicurezza da parte della Banca Centrale Europea il sistema bancario europeo? In un certo senso hanno collaborato tutti. La Banca Centrale ha fatto il suo dovere abbassando i tassi di interesse. I governi hanno fatto il loro dovere qualche mese prima, quando hanno salvato il sistema bancario da un collasso totale. E poi man mano questo salvataggio si è trasformato in una stabilizzazione. Ma tutti questi famosi pacchetti fiscali non penso che abbiano influito già su questo dato, perché loro spiegheranno gli effetti fra qualche mese e piuttosto nel 2010. Per cui penso sia l'effetto congiunto di una stabilizzazione dei mercati finanziari, che poi è l'effetto congiunto della BCE, quello che ha fatto la Fed anche, e quello che hanno fatto i vari governi nazionali per salvare i loro sistemi bancari. Quindi tassi vicini allo zero a livello europeo, costo del denaro vicino allo zero, e poi tutta la enorme massa di miliardi di euro messi a garanzia del sistema bancario. Questi veri effetti. Beh, il fatto che lei dica che gli effetti invece delle politiche fiscali dei vari governi si esplicheranno, si concretizzeranno più avanti, potrebbe essere anche una cosa positiva, perché vuol dire che più avanti avremo anche questa componente. Prima di passare all'Italia, professor Grosso, vorrei sentire l'opinione del presidente dell'Istat, perché come ricordavo fino a qualche giorno fa è stato direttore del Dipartimento di Statistica anche dell'OCSE, quindi ha una visione anche europea. Presidente Giovannini, Grosso in qualche modo ha parlato del rimbalzo del gatto morto, perlomeno sulla Germania, ma mi è sembrato di capire un po' anche sulla Francia. Lei è d'accordo o c'è qualche elemento di maggior così ottimismo? La buona notizia è che ciò che sta rimbalzando non è un gatto morto, cioè non stiamo parlando di economie che sono morte, ma sono di economie che mostrano i primi segni di stabilizzazione, come diceva il professor Gross, e in termini prospettici anche qualche segnale di recupero. Ma ancora una volta partiamo da livelli molto bassi, dovremo cominciare a ragionare molto di più di comparazione tra livelli nei dati, e oggi il PIL italiano per esempio è ai livelli dell'ultimo trimestre del 2001, quindi un trimestre che seguì l'attentato alle Torri Gemelle, perché recuperare i livelli ante crisi richiederà molto tempo e la velocità di questo recupero è ancora completamente sconosciuta. Quindi torniamo all'esempio di prima, che vale per il PIL di un paese ma anche per il fatturato di una singola impresa o società. Se tu da 100 fai meno 40, come nel caso di molte società, vai a 60, se poi quell'anno riesci a fare un più 10, che è già un risultato assolutamente notevole e ragguardevole, da 60 vai a 66. Ecco perché poi si dice, per recuperare i livelli di produzione del 2007 bisognerà aspettare forse fino al 2012. Vorrei un suo commento, Presidente Giovannini, anche su insomma che cosa ha contribuito quantomeno a stabilizzare la discesa del gatto e a fermare la discesa del gatto, visto che il gatto è vivo e lotta insieme a noi. Però le politiche monetarie, le politiche di la messa in protezione e in sicurezza del sistema bancario, o anche qualche politica economica? Intanto la messa in sicurezza, almeno per adesso, del sistema bancario ha evitato il crollo sistemico, come si suol dire, e quindi un crollo simile a quello che si ricorda avvenne nel 29 molti anni fa. Le politiche economiche hanno avuto un segno completamente diverso da quella che appunto si ebbero 60 anni fa, 80 anni fa, e da questo punto di vista c'è stata una politica molto espansiva che certamente ha influenzato le aspettative di domanda sia nei paesi più direttamente coinvolti nella crisi, ma direi anche le aspettative di domanda che attraverso il commercio internazionale si trasmettono poi tra le varie economie. Infine direi che i meccanismi messi in alcuni paesi, in particolare in Europa, a protezione della caduta brusca della domanda di lavoro, cioè dell'occupazione a seguito della caduta produttiva, hanno attutito il crollo della domanda di consumo. Qui il vero tema è come sta andando la propensione al risparmio delle famiglie, e i segnali sono che le famiglie sono estremamente prudenti e quindi stanno tentando di risparmiare per assicurarsi un futuro più roseo, e questo non è una buona notizia nel brevissimo termine per i consumi e quindi per la produzione. Sì, magari è una buona notizia per le famiglie nel medio termine, perché qualche soldo in più non guasta. Però è chiaro sul ragionamento, Presidente Giovannini, cioè vediamo adesso come si muoveranno anche altre voci, per noi fondamentale quella dei consumi, e in generale quale aggancio ci potrebbe essere a un tentativo di ripresa. Perché glielo chiedo? Perché, e vengo all'ultimo tema, in Italia, insomma, noi abbiamo detto per mesi, ed è vero, che il sistema bancario italiano era meno coinvolto in questa crisi dal punto di vista delle esposizioni. I mutui subprime erano poca cosa rispetto a quello che abbiamo visto in altri paesi. La bolla immobiliare non ha avuto nulla a che vedere con la bolla spagnola o britannica. Le nostre imprese, per carità, sono molto legate all'export, quindi avevamo un modello un po' tedesco, ma eravamo messi meglio finanziariamente di altri paesi. Però io guardo i dati, adesso tutti usciti, e vedo che la Germania nel secondo trimestre ha fatto un più 0,3 rispetto al primo, la Francia ha fatto un più 0,3 rispetto al primo trimestre, e la Gran Bretagna ha fatto un meno 0,8 e l'Italia ha fatto un meno 0,5. Portando, se ho ben capito, rispetto all'anno prima, il calo del nostro PIL già al 6%. Professor Gross, come mai secondo lei l'Italia ha un secondo trimestre rispetto al primo ancora così negativo, meno 0,5%, pur non essendo un paese così in bolla immobiliare e con un sistema bancario che tutto sommato non ha dovuto svalutare granché rispetto a altri sistemi? Ma l'Italia sconta una debolezza strutturale che era visibile già prima della crisi e continua anche durante questa crisi, per cui l'Italia quasi costantemente fa un po' meno degli altri. Se si vede la caduta del PIL cumulato dall'inizio della crisi, l'Italia è il campione in Europa, meno 6, mentre in altri paesi tipo Germania è la metà, in Francia è molto di meno. Per cui, e questo è il vero problema, non tanto che l'Italia non abbia tanti fattori speciali che vengono di fronte a questa crisi, ma l'Italia ha questa debolezza strutturale. Allora, Presidente dell'Istat, intanto sei d'accordo, perché hai dati alla mano, quello che noi vediamo magari ci potrebbe essere un miglioramento. Io ricordo che comunque, secondo l'OCSE, noi faremo un meno 5,5 quest'anno, se continua così mi sa che lo superiamo pure. Insomma, è d'accordo che ci sia una debolezza più forte degli altri. Mi fa un po' specie che noi quando c'è da crescere cresciamo un po' di meno e quando c'è da calare caliamo un po' di più. I fattori strutturali che ha ricordato il professor Gross sono indubbiamente veri, c'è un gap, c'è una differenza di crescita tra l'economia italiana e le economie degli altri paesi sviluppati che ormai si è realizzata negli ultimi 10 anni in modo abbastanza consistente. Quello che certamente ha influenzato l'economia italiana forse più di altre, certo senso, è stato l'effetto moltiplicatore purtroppo negativo del commercio internazionale. Tutti ci siamo scoperti molto globalizzati, come si dice, un battito d'ali in una parte del mondo provoca tempeste in altre parti del mondo. Ecco, il commercio mondiale è caduto a un ritmo veramente vertiginoso e, come sappiamo, le esportazioni sono uno dei fattori trainanti dell'economia italiana. La buona notizia da questo punto di vista è che i settori che sono più attivi sui mercati, che sono caduti di meno, per esempio la Cina, hanno mostrato negli ultimi mesi in Italia una performance delle esportazioni non disprezzabile. Quindi vuol dire che gli imprenditori italiani sono sui mercati, sono attivi, cercano le opportunità. Da questo punto di vista, se effettivamente le aspettative invertono il segno e quindi si muovono maggiormente al rialzo, c'è la speranza, tutta da verificare, naturalmente, che le esportazioni italiane beneficino di questa ripresa e che quindi l'economia italiana riceva anche da questo una spinta al recupero. Sì, a me ha fatto personalmente impressione che gli imprenditori più ottimisti verso il futuro, dato di lunedì, a livello europeo fossero gli italiani e i tedeschi, invece più distanti quanto ottimismo i francesi e i britannici. Però io al Presidente dell'Istat non posso chiedere intanto se avete intenzione di modificare le vostre previsioni sul PIL finale, numeri alla mano, visto che a metà dell'anno ce lo siamo già giocati, e poi molti ascoltatori ci chiedono al 349-238-6666, le giro la domanda così come la leggo, Ma voi all'Istat ci credete veramente all'inflazione a zero? Che, insomma, apre un ventaglio di, diciamo, di commenti possibili, prego. La risposta alla prima domanda è che l'Istat normalmente non fa previsioni e quindi non abbiamo un numeretto da modificare. Abbiamo certamente le nostre valutazioni, che però appunto non sono così precisamente quantitative quanto le previsioni dell'OCSE o di centri di ricerca privati o pubblici. Per ciò che riguarda l'inflazione a zero, questo mi dà l'opportunità di segnalare che se la media è zero, in realtà ci sono variazioni in alcuni capitoli di spesa, e parlo dei servizi, e parlo degli alimentari, ma soprattutto le bevande alcoliche, che hanno dei tassi di crescita rispetto all'anno precedente non zero, ma anche dell'ordine del 3%. Naturalmente compensate da cadute di altre voci, in particolare la benzina fino appunto al mese di riferimento a luglio, e poi anche come al solito gli strumenti di nuova tecnologia. Quindi dire zero non vuol dire che tutti i prezzi sono fermi, ma che zero è la sintesi di aumenti di prezzo e riduzione di prezzo, e in particolare aumenti di prezzo che normalmente i consumatori sentono di più, quali appunto gli alimentari o alcuni tipi di servizi. Sì, cito anche gli stabilimenti balneari, che hanno fatto un più 4%, più 4,3% se non ricordo male dal vostro ultimo dato. Staremo a vedere, dico e ricordo a chi è più scettico di noi, che oggi la stessa Banca Centrale Europea ha parlato di recessione mondiale che sta raggiungendo il punto di svolta, sebbene il livello di incertezza resti elevato. Cito testualmente, e ha previsto un PIL dell'area euro che l'anno prossimo farà un più 0,3%, quest'anno farà un meno 4,5%. Ha anche detto la Banca Centrale Europea che l'inflazione bassa o negativa sarà di breve durata, e questa è una buona notizia, perché un po' di inflazione è segno di un'economia un po' vitale, no? È come la temperatura di un corpo: se vai a 35 vuol dire che tanto bene non stai, meglio avere a questo punto la temperatura 37. O 36,8. Grazie sia al presidente dell'Istat, nostro ospite Enrico Giovannini, e al presidente del SEPS di Bruxelles, Daniel Gross. Allora, il corvo è tornato. No, veramente il gufo, non accettiamo plagi. Il gufo non ce l'abbiamo, non c'è nessun motivo per averlo. La borsa sta conoscendo questo mini rally estivo, che comunque mantiene, e i dati di Germania e Francia sono migliori delle attese. Di questo passa il convento, di questo dobbiamo accontentarci. Adesso il meteo, la pubblicità, poi la borsa, e poi invece i vizietti o i lupi che perdono il pelo. Ne hanno perso anche tanto, ma non il vizietto. Mi riferisco a Wall Street, dove con i bilanci tornati in utile dei principali gruppi bancari americani tornano anche i vecchi amori: fare trading di titoli iperspeculativo, giocare sui millesimi di secondo per guadagnare in borsa. Insomma, qualcosa che dopo quello che è successo ci lascia un po' perplessi. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Altri messaggi, ripeto, non possiamo fare tutta la puntata sui dati economici di Francia, Germania e Portogallo a questo punto, ma insomma qualcosa si muove, o eppur si muove, guardando all'economia europea, dell'area euro soprattutto. La borsa, dicevo, più 1,3%, Milano che è tra le migliori, anzi la migliore delle borse europee, Parigi più 0,5%, Francoforte un punto percentuale di rialzo, Londra anch'essa. L'America oggi non sta dando una grande mano, è sostanzialmente invariata sul Dow Jones, più 0,2% sul Nasdaq. Euro vicino a quota 1,43, a 1,42,77, e allora la borsa. Guido Maurino, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Titoli oggi positivi soprattutto in Italia: le CIR più 5,6%, Fiat più 5,3%, poi di nuovo una pattuglia di titoli legati al mondo bancario e delle costruzioni, Italcementi più 3,3%, Monte dei Paschi più 3, Fondiaria anch'essa più 3% come Pirelli, Unicredito più 2,80, Banco Popolare più 2,3 come Mondadori, Prismian più 2,1, Tenaris più 2% e Luxottica più 1,90 come Mediobanca e Ubibanca. Sul fronte opposto, la Popolare di Milano perde lo 0,80 e Buzzi Unicem lo 0,6%. Cede qualcosa anche Telecom, meno 0,4% ed Enel, meno 0,1%. Poco mossi gli altri titoli, sostanzialmente va bene anche Ansaldo, STS più 1,6%. E un punto e mezzo lo guadagna Intesa San Paolo, ma anche Finmeccanica, Snam, Artegas e Autogrill, l'1% rialzo di Unipol e Atlantia, lo 0,7% quello di A2A ed Eni. I migliori, i peggiori, prima che me li chiedate voi ve li do io. Mariella Burani, Fashion Group più 11,7%, poco altro, le Intex, la Risparmia più 9%, Renault più 6,5%, i peggiori Egon meno 5,3% e poi Edes di nuovo meno 2,7%. Partiamo con Fiat sicuramente, ma anche a questo punto le CIR. Sì, allora Fiat si è mossa bene. Opel Magna, no? Opel Magna oggi è questo che ha tenuto un po' banco, il titolo accelerato dopo le notizie arrivate dalla Germania sull'accordo che ormai sarebbe quasi fatto per la vendita di Opel a Magna. Però oggi insomma è stata una giornata positiva un po' per tutto il comparto auto, sia il DJ Stocks settoriale che ha guadagnato il 2,5%, che mostra proprio come un po' tutte le case automobilistiche oggi abbiano guadagnato bene. Renault ha chiuso in rialzo del 4,7%, Peugeot del 3%, BMW anche lei quasi del 4%, più 3,82%. Il mercato ha premiato in questa fase soprattutto un po' i titoli ciclici sulle notizie positive arrivate dai PIL di Francia e Germania. Inoltre in Italia ancora una cosa che ha aiutato Fiat è stato l'annuncio da parte del ministro Scajola di nuovi incentivi per GPL e metano, quindi anche questo in qualche modo ha contribuito alla performance di Fiat oggi. Sì, devo dire, facciamo capire a tutti, il mercato festeggia che si sia chiuso l'accordo tra Opel e Magna perché non vede un esborso di soldi da parte di Fiat, detto in maniera un po' brutale, no? Sì, e soprattutto questo, il fatto che, insomma, essendo finita ormai questa partita, Fiat non dovrà sborsare soldi, quindi la posizione finanziaria di Fiat è vista in prospettiva più solida che non con un accordo. Io così, ma per prudenza la partita la definirei chiusa solo a elezioni tedesche concluse, però è vero che l'accordo l'hanno firmato e staremo a vedere, poi vediamo anche nei prossimi anni come si comportano i nuovi acquirenti. Andiamo avanti, le CIR più 5,6. Sì, oggi è stata una giornata particolarmente positiva un po' per tutti i titoli della Galassia De Benedetti. Sul listino principale si è mossa bene CIR, ha guadagnato il 5,59%. Non ci segnalano ragioni particolari se non il fatto che oggi Bestinver, la società di gestione di risparmio di Acciona, ha comunicato di aver limitato ancora un po' la quota in Cofide, che è sempre controllata da CIR, quindi dalla Galassia De Benedetti, e ora al 16,4%. Già in passato i movimenti di Bestinver sui titoli della Galassia De Benedetti avevano fatto muovere il titolo. Va ricordato che proprio questa società di gestione del risparmio ha già attualmente il 7,5% di CIR, il 7,5% di Sogefi e il 16,4% di Cofide. Intanto chiarisco a chi ci scrive che la borsa è aperta anche domani, infatti domani saremo in diretta anche noi, piaccia o non piaccia, ma la borsa è aperta anche nella giornata di domani. Andiamo avanti con altri titoli per quello che riguarda la borsa di oggi. Bene i taggimenti, ma ormai insomma, questa non è quasi più una notizia. Bene comparto editoriali, Mondadori più 2,3%. Qui forse il ciclo economico influisce un po' di più, cioè l'idea che si sia fuori dalla parte peggiore, che inizino a arrivare da Germania, Francia e anche da Portogallo i primi segnali di ripresa, sì, di recupero, ecco, per essere più corretti. Sì, diciamo che il recupero dell'economia è atteso tradursi anche in un recupero del mercato pubblicitario. Per cui oggi questi segnali positivi sul fronte economico hanno ridato fiducia e hanno fatto scattare un po' tutti i titoli del comparto editoriale che in questi mesi sono stati molto penalizzati. Il titolo che si è mosso meglio è RCS, che ha guadagnato il 5,37%, oltretutto fra scambi anche molto alti, pari a circa 4-5 volte la media, la media calcolata sugli ultimi 30 giorni. Bene, si sono anche mosse l'Espresso, che ha guadagnato il 3,35%. Poi c'è una notizia, così in discrezione, però, che riguarda Mediobanca. Il titolo ha guadagnato l'1,9%, ma sarebbe in trattative con la tedesca Sal Oppenheim per l'acquisto delle sue attività di investment banking. Sì, una notizia che poi è in pratica anche stata almeno parzialmente confermata dalla stessa Mediobanca. Società. Sostanzialmente Sal Oppenheim, una banca privata tedesca, socia anche con una piccola quota della stessa Mediobanca, è in difficoltà. Recentemente è stata costretta a chiedere aiuto a Deutsche Bank a causa della crisi, però Deutsche Bank sarebbe interessata solo alla divisione di gestione patrimoniale e non vede, o almeno così sembrerebbe, vede abbastanza di buon occhio, diciamo, la cessione dell'investment banking a Mediobanca. Piazzetta Cuccia oggi poi ha fatto sapere che sì, c'è un interesse di Mediobanca a crescere in Germania, dove oltretutto Mediobanca è già presente dal 2007, e Sal Oppenheim è considerata in questo senso da Piazzetta Cuccia una buona opportunità. Certo, i tempi non saranno immediati, si parla almeno di settembre, bisognerà vedere come evolverà la trattativa con Deutsche Bank e Sal Oppenheim, però sicuramente c'è un interesse da parte di Mediobanca a questa partita. Grazie a Radio Cor, nella persona oggi di Guido Maurino, per l'aggiornamento sui mercati finanziari. Altri titoli, mi sembra che abbiamo dato praticamente tutto oggi di quello che si è mosso, le informazioni per chi è in viaggio, e poi parliamo dei lupi, lupacchiotti, lupi mannari, insomma i vizietti che ritornano, i vizietti del trading altamente speculativo, i nuovi giochi di prestigio li hanno chiamati alcuni, altri hanno detto tornano gli squali, ma insomma il dato è sempre il solito, si arriva con operazioni che vanno sotto il nome di flash trading o dark pool, già dark pool, cioè la piscina nera, la pozza nera, dovrebbe dare l'idea di che cosa stiamo parlando. Tornano le banche d'affari a giocare in maniera altamente speculativa con il trading, in occasione tra l'altro anche di questo ritorno agli utili miliardari nel trimestre pubblicati da Goldman Sachs, da Citigroup, da Bank of America, ma a casa nostra in Europa anche la Deutsche Bank e BNP Paribas e la stessa Barclays. Allora, flash trading, dark pool, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Tornano infatti gli utili nelle banche d'affari americane, l'abbiamo visto con i conti del secondo trimestre, tutto inutile a sorpresa, ma utili anche importanti, siamo contenti. Goldman Sachs 3 miliardi e mezzo nel secondo trimestre del 2009, per cui ha guadagnato 30 milioni di dollari al giorno praticamente la banca d'affari americana. Un po' avvantaggiata da quello che stiamo leggendo rispetto alla povera Lehman Brothers ai tempi dell'amministrazione Bush, e ha già restituito in anticipo i 10 miliardi degli utili ricevuti. Citigroup ha fatto 3 miliardi di utili, Bank of America anche, in Europa utili miliardari per Deutsche Bank, BNP Paribas, Barclays, ma in America furoreggia una canzone di un gruppo che si chiama The Muse, la canzone si chiama Uprising, cioè la rivolta, ed è tutta un attacco al mondo bancario, al mondo di Wall Street, che in sostanza ha generato questa crisi epocale. Sentiamo l'inizio. trovo una parola migliore. È valida. La verità è giusta. La verità funziona. La verità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. La verità in tutte le sue forme. La verità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. E la verità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Delta Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Allora, Walter Rolfi, in questo passaggio mitico, lasciatemelo dire, di Wall Street, in cui un Gordon Jekyll, insomma, ricordava come la verità è la molla quasi del progresso della civiltà, non so, sicuramente uno dei peccati capitali. Walter Rolfi, tu che hai scritto per primo di questo nuovo rimettere le mani nella marmellata del trading altamente speculativo sul Sole 24 Ore, aiutaci a capire una cosa molto banale, spero, e cioè... questi flash trading, ossia quando un grosso ordine di acquisto, centinaia di migliaia di dollari, viene, o di vendita di titoli, viene prima di essere distribuito, viene mostrato per mezzo secondo su un bollettino elettronico in cui gli investitori istituzionali possono vedere se, cosa fare, operare sul titolo prima che venga effettivamente emesso l'ordine, quindi già è un po' strano. Oppure questa dark pool, centri di scambio elettronico dove passano grandi quantità di titoli che non hanno identità e valore. È tutta roba normale, nel senso che il trading non va in qualche modo segregato né eccessivamente criticato, o stiamo tornando ai vecchi vizietti? Beh, allora, tanto non è una... questo trading elettronico fatto col computer non è una cosa nuova, no? Perché già nel 1987, nell'ottobre, quando c'è stato il crollo della borsa di New York, si è imputato proprio alle vendite programmate attraverso computer questo crollo, o comunque l'entità di questo crollo. Quindi già venivano fatte in automatico allora con computer. Quello che sta... questo non ci fa stare meglio, ecco, visto quello che è successo. Quello che è cambiato, diciamo, negli anni del 2000 è semplicemente la velocità di questi ordini, no? Prima, adesso io non so quanto ci mettessero il computer a eseguire l'ordine, ora si parla di 2 microsecondi, che mi pare siano 2 millesimi di secondo per, o 3 millesimi di secondo per operazione. Quindi una velocità che neanche un battito di ciglia, una cosa... umanamente non percepibile. E chi fa uso di queste macchine sofisticate che usano algoritmi, cioè formule ancora più sofisticate. Queste formule tengono presente i volumi sui singoli titoli, i rialzi, i ribassi, le quantità che sono in vendita, le quantità che sono in acquisto, poi tutta una serie di altri indicatori che arrivano sia dall'analisi tecnica, sia proprio dalle condizioni del mercato, e poi buttano fuori un ordine o di acquisto o di vendita. Di solito questi qui giocano su spread, cioè su differenze di prezzo marginali. Faccio un esempio: un titolo viene richiesto, uno vuole comprarlo a 10,22 centesimi, loro se lo comprano a 10,22, ma lo rivendono a 10,24, 10,25, quindi fanno dei minimi guadagni, solo che lo fanno moltiplicati prima di tutto su un quantitativo enorme, poi lo fanno più volte al giorno. Chi usa queste macchinette sono i day trader, cioè gli operatori che chiudono poi le operazioni in giornata, che sono poi alla fine dei veri e propri professionisti questi, no? E questo tutto sommato non crea grossi problemi. Allora, per quello che riguarda le operazioni, tu ricordavi che tutte queste cose esistevano anche prima, semplicemente la velocità con cui tu ti chiedo di metterti le cuffie, abbiamo un po' di ritorno, grazie Walter, la velocità con cui questi operazioni vengono svolte è una velocità, come tutto nell'informatica, 10, 100, 1000 volte più alta. Il punto però è un altro: l'amplificazione di questa crisi finanziaria è stata dovuta anche a operazioni di cui palesemente i vertici bancari non avevano capito nulla, non sapevano, non si parlavano tra uffici, insomma abbiamo scoperto di tutto in questo anno. È a tuo avviso corretto mettere anche un limite a operazioni così veloci, operazioni che penso al dark pool, cioè dove passano enormi quantità di titoli senza che nessuno poi riesca a capire l'identità del valore, oppure diciamo l'errore era un altro e non stava certo nel day trading e nell'utilizzo della velocità che l'informatica ti mette a disposizione per comprare e vendere in tempi prima inimmaginabili. Ecco, vabbè, ci sono tanti problemi o cose che vanno regolate. Comunque questo qui, il trading così veloce, infatti viene chiamato high frequency trading, alla fine non è una cosa così dannosa, certo avvantaggia quelli che hanno questi algoritmi e queste macchine così potenti, ma poi c'è l'altro aspetto, quello che, di cui avevi accennato, il flash trading, no? Ecco, questo qui, infatti, le stesse circuiti e lo stesso Nasdaq ha deciso di abolirlo prima che intervenga la SEC, no? Ma questo questa è una pratica incorretta, anzi probabilmente illegale, perché questo qui, oltre a fare tutto quello che abbiamo detto prima, anticipare, vedere, eccetera, eccetera, è talmente veloce che riesce a entrare nel sistema e vedere gli ordini di acquisto e di vendita prima che compaiano sugli schermi degli operatori. Quindi praticamente è agire come fosse un insider. Infatti stavo per dire, sembra il classico insider trading, cioè quello che sa prima. Il front running, cioè quello agire prima degli altri. Quindi è in sostanza, anche se in tempi di mezzo secondo, la stessa... No, di un millesimo di secondo. Per cui un millesimo di secondo è lo stesso tipo di atteggiamento che porta a un reato che da noi si chiama insider trading, cioè quando tu hai informazioni prima del tempo, certo, che un soggetto sta per comprare un milione di titoli X o sta per vendere un milione di titoli X. In questo modo, con questo sistema informatico, tu riesci a vedere, anche se per mezzo secondo, ma può essere sufficiente, se c'è un grande volume, un grande ordine di acquisto sul titolo X o di vendita sul titolo X. È chiaro che di fatto sei avvantaggiato. Un'ultima domanda ce l'ho e mi ricollego a quel passaggio di Gordon Jekyll sull'avidità. Goldman Sachs ha già accantonato, cioè messo da parte, 6 miliardi e 600 milioni di dollari da distribuire ai dipendenti sotto forma di premi. Io poi vorrei capire premi su cosa, però questo ha pochi, col cadavere ancora caldo, diciamo, dell'indagine, che Andrew Cuomo, il procuratore di New York, sta svolgendo a New York, quando ha scoperto che, nonostante i crolli in borsa, le perdite registrate, continuavano Citigroup, JP Morgan, Merrill Lynch a distribuire 28 miliardi, 45 miliardi, 40 miliardi di bonus, cioè ricevevano 50 miliardi dal contribuente americano per ripianare i buchi, però intanto si distribuivano parte di questo malloppo. Secondo te può tornare così a breve la stagione dei mega bonus? Secondo me sta già tornando. Nel caso di Goldman Sachs, addirittura i bonus programmati per il 2009 sono superiori a quelli dell'anno d'oro 2007, che bellissimo, era stato il colmo, no? E anche le altre lo stanno facendo. Allora, Goldman Sachs è una... diciamo un'eccezione, è un assè nel mondo delle banche d'affari, sai, in America, come la chiamano, Government Sachs, alludendo al fatto che le relazioni degli uomini di Goldman Sachs con il tesoro americano e con la SEC sono talmente forti che forse magari ha anche qualche vantaggio. Qualche vantaggio. Sembra la porta girevole di certi alberghi, uno entra in Goldman, poi va al tesoro, poi va alla SEC, poi torna, infatti, in Goldman. Questi uomini... Però il sistema di questo tipo di incentivi sta ritornando insomma pesantemente, e ci manca che adesso ritornino anche gli altri incentivi, quelli legati alle stock option, no? Il discorso del shareholder value, il valore per gli azionisti, che era una truffa, perché era spremere un'azienda sui tre mesi con falsi risultati e manipolando il titolo per avere... poi degli utili per gli amministratori. Allora, io spero di sbagliarmi. Devo dire che nelle ultime due estati, quando pensavamo di fare un agosto tranquillo, ci siamo beccati prima la crisi mutui subprime, poi la settimana scorsa il crollo anche dei listini. Purtroppo le cose, così, i primi segnali sono sempre arrivati d'estate. Spero di sbagliarmi e spero che questa voglia nuova di tornare a strumenti al limite della legalità, come tu ricordavi nel caso del flash trading o del black pool, e questa nuova voglia di distribuire miliardi e miliardi di bonus addirittura superiore a quelle del 2007, sia solo così un fuoco di paglia, e spero quindi che anche il nostro Gordon Gekko, visto che lo chiedete, ve lo facciamo sentire, abbia in sostanza torto. L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, l'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. E l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Tel del Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Grazie a Walter Riolfi del Sole 24 Ore, grazie anche a voi in ascolto, e da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata. Ci risentiamo domani per l'ultima puntata della settimana di Focus Economia dalle 17 in poi.